Le assise perché viviamo in un momento delicato e l'economia è la vera emergenza del paese, la crescita e lo sviluppo sono la vera emergenza del paese. Sono a porte chiuse perché vuole essere un momento di confronto interno in cui uscire condividendo tutti quello che abbiamo definito un intervento organico di politica economica, perché va bene tenere i conti chiaramente a posto, ma in questo momento abbiamo una necessità forte di riaprire il paese alla competitività e le imprese ad esprimere al meglio le loro potenzialità. Ricordiamo che tra poco ci troveremo di fronte ad un aumento delle materie prime, ad un aumento dei tassi di interesse, ad un aumento dei costi di energia e se dall'altro lato non avremo una politica economica attenta ai produttori, intendendo per tali imprese e lavoratori, evidentemente soffriremo non poco. La politica non la volete o non l'avete voluta perché preferite poter parlare liberamente. Come si svolgeranno, tra l'altro, i lavori mattina e pomeriggio? La mattina avremo dei tavoli dedicati ad alcuni argomenti che abbiamo definito. Uno è l'impresa che vogliamo e il compito di Confindustria, quindi ci guarderemo molto dal di dentro, sia dal punto di vista aziendalistico che associativo. Un altro tavolo saranno le relazioni industriali per la produttività, ancora fisco, credito e finanza, poi infrastrutture, ambiente e energia, pubblica amministrazione, costi della politica e semplificazione, scuola, lavoro e giovani, sui giovani si aprirà un grande confronto, mezzogiorno e fondi strutturali e poi tecnologia, ricerca e innovazione. Mentre al pomeriggio, dalle 13 in poi, cominceremo la sessione plenaria con una serie di interventi e poi le conclusioni della Presidente Marcegaglia per appunto definire questo percorso. Le assise in realtà sono un punto di partenza, non un punto di arrivo, un punto di partenza di una Confindustria che vuole esprimere un progetto di sviluppo per il Paese, perché in questo momento le non scelte della politica potrebbero danneggiare moltissimo il tessuto imprenditoriale italiano.